Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Vi anticipo già che alle 18 faremo ascoltare in coda al GR lo scontro Renzi, chiaramente Grillo, ma anche perché ha un rilievo politico in primo luogo, ma anche insomma, mediatico. E dopodiché invece commenteremo con Guido Gentili quello che è, a me non piace il termine toto ministri perché ricordo appunto le scommesse, però c'è un tema che diventa sempre più caldo, anche perché si va verso una lista, una presentazione della lista al Quirinale, ed è il tema del Ministro dell'Economia. È innegabile che quello sia il tassello, diciamo, del domino fondamentale anche per le altre parti. È innegabile, come riportano le agenzie e anche molti giornali, che vi sia un'attenzione specifica di Mario Draghi, del Presidente della Banca Centrale Europea, per carità tutto all'interno, diciamo, dell'alveo dei normali rapporti istituzionali, però per capire chi Renzi proporrà come Ministro all'Economia, sono circolate voci insistenti di un possibile richiamo di Saccomanni, il quale oggi ha dichiarato: vedremo se mi arriva una proposta, la valuterò, ma nel frattempo sono circolati i nomi di Lucrezia Reichlin, è stato sondato anche Romano Prodi, no anche da parte di Franco Bassanini, presidente della Cassa Depositi e Prestiti. Tra poco Renzi incontrerà il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, è un incontro istituzionale, però quello è uno dei nomi circolati, così come l'ex presidente di Telecom Franco Bernabè, circolato anche per lo sviluppo economico come ministero, il presidente dell'Istat Carlo Padoan e il ministro Graziano Del Rio. Nelle ultime ore abbiamo visto anche il nome dell'ex rettore della Bocconi Guido Tabellini e di Piero Fassino. C'è un nome che era circolato con insistenza, ma è venuto meno, quello di Fabrizio Barca, lo dico sorridendo, la colpa è nostra, di Radio 24, dello scherzo della zanzara, però tant'è, insomma, mi sembra che anche all'interno di quello scherzo Fabrizio Barca di intenzione di fare il ministro dell'economia ne avesse praticamente zero, per cui non prendetevela con Radio 24 e con la zanzara. Detto questo, vedremo, perché il tema è delicatissimo, anche perché è il ministro che deve garantire, diciamo, l'Europa e deve garantire la BCE, per cui si tratterà di capire quanta discontinuità si è in grado di creare Renzi. Ancora, i temi che tratteremo oltre a questo riguardano l'economia internazionale, con una vicenda che è però molto vicina a noi perché è accaduta in Francia. Mi riferisco alla Cina, che entra nel gruppo Peugeot Citroën, che è il numero uno automobilistico francese, da tempo in crisi, ma entra non un fondo privato, entra proprio lo Stato cinese, il costruttore cinese Dongfeng, che è partecipato dallo Stato cinese, parteciperà all'aumento di capitale da 3 miliardi di euro per Peugeot Citroën. Praticamente lo Stato francese e Dongfeng investiranno 800 milioni di euro ciascuno in questa operazione. Vi dico già che ogni tanto, perfino a chi vi parla, sfuggono i meccanismi dell'Europa, poi li chiariremo. C'è una normativa europea molto chiara sugli aiuti di Stato. Onestamente, letta così, l'aumento di capitale a cui partecipa lo Stato francese da 800 milioni di euro, con 800 milioni di euro, sembrerebbe un aiuto di Stato, no? Poi vedremo di capire il perimetro, però detto ciò, la famiglia Peugeot, azionista storico, come dice il nome stesso, del gruppo, non avrà più il controllo della società al termine dell'aumento di capitale. Ma ripeto, non è tanto l'ingresso dei cinesi in Peugeot, per quanto sia lo Stato cinese, è l'aiuto che viene dato dallo Stato francese a Peugeot, che così può suscitare qualche perplessità. Per quello che riguarda i temi, partiremo subito con una notizia che può sembrare, diciamo così, di carattere specifico, ma oggi su Sole 24 Ore viene lanciato un allarme, prima che poi ne parlino tutti, sul rischio che il credito delle banche alle imprese possa ulteriormente contrarsi, cioè ridursi, grazie, si fa per dire, alle nuove regole messe a punto dalla European Banking Authority. Ci sono 183 nuove regole che, per esempio, impediscono a una banca di intervenire ad aiutare un cliente in difficoltà più di una sola volta. Cioè, se io do un aiuto a un cliente in difficoltà una volta, ok, la seconda volta dovrò classificare automaticamente il prestito come credito in sofferenza, che vuol dire aumentare, da un punto di vista tecnico, tutti i volumi e i valori delle sofferenze bancarie, e con chiaramente un atteggiamento che diventerà ancora più prudente e ancora più restio da parte delle banche. E questo per quello che riguarda il tema di apertura, e di apertura anche perché oggi la Corte dei Conti segnala come la stretta creditizia delle banche continuerà anche nel 2014. E migliorerà dal 2015, però è la stessa Corte dei Conti che a dire che gli impegni bancari calano e imbrigliano, quindi creano una resistenza, una difficoltà alla ripresa economica del paese. Generalmente, lo dico dal punto di vista storico, le sofferenze bancarie iniziano a calare, quindi tutti i crediti che le banche hanno concesso e che non riescono più a ottenere iniziano a calare dopo un anno e mezzo, due anni dall'avvio della ripresa, e quindi ripresa vera e propria, quindi se tanto mi dà tanto dovremmo essere a un calo delle sofferenze bancarie non prima della fine del 2015. Ancora per quello che riguarda la borsa, meno 0,20% oggi Milano, più 0,20% Parigi, invariata Francoforte, più 0,30% l'America, meno 0,07% come sempre in questi casi. La battuta è ovvia, 007 per Londra. Dal punto di vista del, volete sapere già dello spread, devo dire che la situazione è assolutamente tranquilla su tutti i mercati e anche su quello italiano, quindi lo spread resta intorno a quota 190 punti, che è un ottimo livello pre-attacco all'euro, in molti casi che apporta un beneficio calcolabile nell'arco intorno ai 5 miliardi di euro per il 2013 alle casse dello Stato come interessi più bassi che paghiamo sul nostro debito. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Rassicuro tutti quelli che anche su Facebook stanno creando il gruppo Barisoni, Ministro dell'Economia, che se tutto va bene continua a condurre questo programma e diciamo, a lavorare alla 24 se tutto va bene, ma non certo diciamo ho altre intenzioni, apprezzo comunque lo scherzo e così. E l'ironia, allora, tra i titoli, A2A più 5,1%, Ansaldo STS più 1,5%, Saipem più 1,40%, Mediolanum più 1%, CNH Industrial più 0,90% come Luxottica. Perde parecchio oggi Tenaris, il 6,60%, Tozzi il 2%, il Banco Popolare l'1,80%, Finmeccanica l'1,70%, Unicredit meno 1,40%, l'1,30% lo perde Steamark Electronics, l'1,20% Telecom, l'1% Pirelli e Ferragamo. Lo 0,90 è il calo di World Duty Free, lo 0,80 quello di Monte dei Paschi e di Atlantia. Sì, adesso non fate anche voi con gli sms il toto Ministro dell'Economia, vedo che mi scrive Monti Ministro dell'Economia, insomma. Cioè così, ma la discontinuità è un'altra cosa. Bini Smaghi, Bernabé di nuovo, cioè tanto fra poco dovremo saperlo, per cui per me è capire non solo il nome ma quanto discontinuo possa essere, perché ripeto, non è che la moral suasion, chiamiamola così, di Mario Draghi non si faccia sentire, eh? Allora, il contesto internazionale, perché lo dico? Perché oggi la Germania ha mancato l'obiettivo di collocare 5 miliardi di Bund sul mercato con una scadenza 2024, ne ha collocati solo 3 miliardi e 800 milioni, con un rendimento in calo dall'1,77% all'1,64%, perché rendono poco, evidentemente il momentaneo, perlomeno tranquillizzarsi della situazione sul fronte del debito europeo, rende meno appetibili i Bund come bene rifugio. Quando rendi l'1,60% lordo, è chiaro, tutta una situazione opposta rispetto a novembre 2011, febbraio 2012, quando addirittura, ricorderete, poi si arrivò a un rendimento quasi negativo dei Bund, cioè si preferiva perdere dei soldi prestandoli alla Germania pur di metterli al sicuro. Tale era la tensione sui mercati internazionali. Per quello che riguarda la Bundesbank, la banca centrale tedesca punta nel 2014 a fare rientrare in patria tra le 30 e le 50 tonnellate d'oro attualmente custodite presso la Federal Reserve americana. La Bundesbank aveva già annunciato un anno fa di voler riportare in patria entro il 2020 300 tonnellate d'oro da New York. Per quella data circa la metà delle riserve auree dovranno essere tornate nei forzieri tedeschi, perché infatti le riserve di una banca centrale non sempre sono nella banca centrale stessa, sono depositate anche in altre banche centrali. La metà delle riserve auree vuol dire 3.400 tonnellate d'oro circa. Poi accogliamo il consiglio del presidente della Bundesbank, Hans Weidmann, che in un'intervista alla Frankfurt Allgemeine Zeitung dice che in una situazione di emergenza uno Stato nazionale che rischi il fallimento, per uno Stato nazionale che rischi il fallimento la tassa patrimoniale potrebbe essere il male minore, grazie, prima di chiedere aiuto ad altri paesi e alla banca centrale. Il contributo una tantum dei contribuenti non dovrebbe essere escluso. Si riferiva a qualcuno in particolare? Non lo sapremo mai. Ancora, c'è chi propone Mario Draghi all'economia. Allora, attenzione, che giudizio assolutamente personale. Mario Draghi ci serve alla presidenza della Banca Centrale Europea, perché è stato l'unico a contenere le spinte, a mio avviso, suicide della Germania, che non avrebbe neanche creato il meccanismo di salvataggio dei paesi sotto attacco spread, né il meccanismo di aiuto alle banche. OMT è stato l'unico a dire con chiarezza che era inutile continuare a speculare sulla fine dell'euro, che lui avrebbe difeso l'euro ad ogni costo con qualunque mezzo necessario, e tant'è che è stato messo anche sotto inchiesta, diciamo così, dalla Corte Costituzionale tedesca. Per cui Mario Draghi ci serve lì, perché sennò veramente, se iniziamo a avere un tedesco, un olandese o, come fu a suo tempo Trichet, un francese che era più tedesco di molti tedeschi, allora le cose buttano male per la parte sud dell'Europa. Per cui teniamo Draghi lì, ci mancherebbe. Sapete che io sono un fan di Draghi, quindi sono assolutamente non obiettivo mentre lo dico. Sul contesto internazionale e in particolare sulle mosse della Banca Centrale Americana, che chiarendo nel primo intervento della neopresidente Yellen che continuerà ad avere una politica accomodante, non ridurrà in maniera brusca lo stampaggio di dollari, ha contribuito poi a far calare anche gli spread, perché a mantenere la liquidità sui mercati. Dicevo, su questo è intervenuto l'economista Nuno Rubini. Rubini è il famoso Dr. Doom, quello che per primo previse la crisi, che poi si abbatté sulle economie di tutto il mondo nel 2008, intervenuto oggi a Roma. Pur mettendo in evidenza le difficoltà attuali dei paesi emergenti, ha espresso un cauto ottimismo, che da Rubini non è poca cosa, proprio sulle economie emergenti. Well, the Fed has started tapering quantitative easing. Last year that was a surprise, but right now... La Federal Reserve ha iniziato la sua manovra di tapering, di riduzione degli stimoli all'economia lo scorso anno, ed è stata una sorpresa. Ma i tassi di interesse nel lungo termine risaliranno e i mercati già se lo aspettano. E la Fed agirà su questo fronte gradualmente. Alcune delle pressioni sui mercati emergenti hanno avuto origine dalla Fed, ma ci sono state anche altre cause. Innanzitutto le preoccupazioni per il rallentamento eccessivo dell'economia cinese, poi il calo del prezzo delle materie prime, quindi tutte cause esterne. Principalmente però c'è stata una causa interna. In tempi di denaro facile c'è stato un flusso enorme verso i mercati emergenti e le politiche sul credito si sono allentate troppo in quei paesi. Inoltre, non sono state fatte riforme strutturali riguardanti il mercato, ma si è scelto un modello di capitalismo di Stato con un intervento eccessivo dello Stato sulle imprese. Fattori sia interni che esterni, dunque, spiegano la fragilità di questi paesi. Alcune delle economie più fragili, ne individuo 5, ossia India, Indonesia, Turchia, Brasile e Sudafrica, hanno un rallentamento della crescita e l'inflazione in aumento. Inoltre, in alcuni di questi paesi, è periodo elettorale e c'è una certa incertezza. È anche vero che questi paesi hanno compiuto aggiustamenti sui conti pubblici e i mercati hanno già assorbito le correzioni. Quindi credo che presto la situazione sarà stabile. Altri paesi sono fragili per motivi diversi. Mi riferisco all'Argentina, al Venezuela, all'Ucraina e in misura minore all'Ungheria, alla Russia e alla Thailandia. Paesi dove le incertezze sono economiche, finanziarie e politiche. Sono ancora ottimista riguardo i mercati emergenti. Molti di loro hanno un tasso di cambio flessibile, hanno livelli bassi di debito pubblico e privato e non sono a rischio insolvenza o di crisi del debito. Certo, per alcuni dei paesi emergenti la situazione sarà altalenante perché sono in corso riforme strutturali per potenziare la crescita. Ma nel lungo termine lo scenario di questi paesi è ancora positivo. Stronger economic growth, but longer term the story of emerging markets still being a good story. Così Nouriel Roubini al microfono della nostra Valeria De Rosa, poi l'intervista che riguarda invece l'euro la ascolteremo anche nei reportage di Radio 24. Ancora due notizie invece che riguardano l'Italia. Perché? Perché da un lato la Corte dei Conti, come già anticipavo, fa notare oggi che aumentano, che ci sono circa 14 miliardi quasi di entrate previste tra il 2017 e il 2020, previste dalla legge di stabilità, che sono a rischio. Ha inviato un documento ai Presidenti delle Camere, ha espresso preoccupazione per, tenendo conto delle modifiche del Parlamento, che ha frammentato gli interventi con 200 micronorme. Dicono anche i giudici della Corte dei Conti che al momento non sembra necessaria una manovra bis, ma criticano i pochi spazi per la spending review. Ma Cottarelli a che fine ha fatto? La stretta creditizia che non accennerà ad attenuarsi visti i vincoli imposti da Basilea 3 e dagli stress test, è il tema di cui parleremo fra un secondo, anche perché è uscita nel frattempo poco più di un'ora fa la congiuntura flash di Confindustria, del Centro Studi Confindustria. Allora, il PIL del quarto trimestre è sotto le attese. È un'Italia che va avanti ad agio quasi ferma, sono i duri dati dell'economia italiana ed è una risposta, anche se ormai sembra passato un secolo, allo scontro con l'allora premier Enrico Letta tra il presidente di Confindustria. La ripresa, anzi cito testualmente, la salita dalla profonda fossa scavata dalla recessione è lentissima e inferiore alle attese il dato sul quarto trimestre 2013, che conferma l'estrema debolezza della risalita. Ancora ci potrebbero essere anche scivoloni all'indietro anziché l'atteso graduale consolidamento. Sempre il Centro Studi Confindustria rileva un clima di scoramento che è facilmente alimentato dalla incertezza dell'alta disoccupazione e dal basso utilizzo degli impianti. E quindi si entra nel 2014 con un effetto trascinamento praticamente nullo. L'effetto trascinamento è quando tu inizi a crescere alla fine dell'anno, un po' come una macchina che dovesse iniziare lentamente a partire, e arrivi nel 2014 con un effetto trascinamento che non c'è, visto l'ultimo trimestre del 2014. Infatti non capivo e continuo a non capire Saccomanni come faccia a parlare della ripresa nella seconda metà del 2013, l'abbiamo fatto ascoltare 28 volte ieri. Però tre priorità secondo Confindustria: la stretta creditizia, la domanda interna e la competitività, quindi i bassi e sempre in calo prestiti delle banche alle imprese, la bassa e sempre in calo domanda interna, quindi consumi, e gli elementi di competitività che si chiamano costo dell'energia, burocrazia e peso fiscale per le imprese. E a questo proposito io non voglio darmi il gufo da solo oggi, però Il Sole 24 Ore evidenzia un nuovo rischio all'orizzonte grazie a queste regole che l'Europa si sta dando sulle banche, che sembrano tutte quante, a mio così, una prima lettura, molto punitive nei confronti di quei paesi, quelle banche che operano in quei paesi dove la struttura di imprese è fatta da piccole e medie imprese. Non siamo tutti la Germania, noi abbiamo degli ottimi dati sull'export e in generale prima della crisi il nostro tessuto di imprese veniva studiato perché avevamo i distretti, le imprese in rete, in filiera. Ecco, non ci sono solo le imprese grandi, i colossi tedeschi, esistono anche altre realtà. A me sembra che quanto scopre oggi il Sole 24 Ore andando a vedere le regole messe a punto dalla European Banking Authority vada in quella direzione, cioè di punire i paesi che hanno una struttura produttiva fatta di molte, di migliaia, di centinaia di migliaia di piccole e medie imprese. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Sì, perché non mancavano i continui cali nei prestiti alle imprese. Il dato di ieri a gennaio, anche se il calo dei prestiti rallenta, c'è comunque un calo. I prestiti a famiglie e imprese meno 4%, i prestiti tra l'altro per le imprese vere e proprie meno 7,5%. È vero che le banche italiane dicono che le sofferenze sono a record mai così alte dal maggio del 1999. E come segnalava anche ieri il Sole 24 Ore, prendendo i dati della Camera di Commercio di Monza e Brianza, molti imprenditori vengono spinti in questo modo nelle mani della criminalità organizzata nelle province di Monza e Brianza, Milano, Brescia, Torino, Genova e Mantova. Si stanno verificando sempre più casi di prestiti usurai, a tassi usurai, e l'acquisizione di debiti verso terzi, che sono i due modelli con cui la criminalità organizzata, 'ndrangheta e anche mafia e camorra, soprattutto la 'ndrangheta calabrese, che ormai è il vero referente in Lombardia per la criminalità organizzata, si inseriscono facendo finta di aiutare questi imprenditori. Pensate che la maggior parte degli intervistati hanno detto di dover ricorrere a queste formule per non chiudere nel 33% dei casi. Claudio Gatti del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, dico, non volevo darmi il gufo da solo. Il problema è che tu hai scoperto che con la nuova direttiva, le nuove regole delle European Banking Authority, rischiamo di penalizzare ulteriormente tutti i prestiti, poi vedremo perché, ai piccoli imprenditori. Ti chiedo ancora un minuto di pazienza, anzi tre minuti di pazienza, che abbiamo il metro della pubblicità, e poi ci racconti gli effetti negativi di alcune di queste 183 nuove regole. minuti, riprende Focus Economia. Allora, Claudio Gatti, perché queste nuove regole della European Banking Authority penalizzeranno sistemi di impresa, sistemi produttivi come il nostro? Beh, innanzitutto c'è da dire che sono misure non intenzionalmente punitive, sono oggettivamente punitive per l'Italia e per paesi dell'Europa del sud. Questo fondamentalmente per due motivi. Uno, perché quei paesi che subiranno le conseguenze più gravi di queste regole sono estremamente deboli, non solo economicamente ma politicamente, quindi non hanno la capacità di fare la voce forte e dire no, fermi un attimo, aspettate, rivediamo le cose. Per quello che riguarda le regole in sé, ci sono delle differenze anche strutturali tra il mondo bancario del nord Europa e quello italiano, e senza scendere in tecnicismi, la sostanza è che queste regole vanno a colpire delle prassi diffuse in Italia e nel sud Europa e non nel nord Europa, e a portare un'ulteriore riduzione del credito. Ecco, facciamo degli esempi, perché prassi vuol dire che magari tu hai un problema, la banca ti aiuta, no, può intervenire a supporto di un cliente. Queste regole per esempio prevedono che può intervenire una volta sola, Ci sono anche norme molto stringenti sugli sconfinamenti sui fidi, giusto? Esatto. Mentre in altri paesi gli sconfinamenti non sono diciamo, frequenti o comuni, neppure le concessioni ripetute. In Italia lo sono, anche perché i fidi e i crediti sono spesso a scadenza, mentre non sono a scadenza, sono a revoca e quindi si vanno avanti nel tempo. Con queste nuove regole è quello che le banche hanno sempre fatto, anche con clienti in bonus o comunque clienti di qualità, di rivedere, di fare delle concessioni ripetute. Non si potranno più fare. In pratica, dopo la prima concessione si dovrà automaticamente classificare come non performing, quindi di fatto in default, il cliente. Questo significa che non si potrà continuare appunto a rivedere, a fare ulteriori concessioni, ma non solo, la banca dovrà fare degli accantonamenti ulteriori se vorrà farli. Con la conseguenza che il cliente peggiora il suo merito di credito, la banca è ancora più restia a prestare soldi, perché ci pensa due volte, se ogni volta poi deve fare gli accantonamenti, cioè mettere dei soldi da parte perché quei soldi vengono visti appunto come già come sofferenze. Pensate che basta che un'impresa sconfini di un solo euro su una linea di credito che superi il 20% del totale dei finanziamenti a lei concessi per far scattare il default su tutte le linee di credito. Allora io dico una cosa, adesso poi arriveremo anche un personale attacco a tale Andrea Enria che siede all'European Banking Authority, però vorrei capire una cosa, queste sono regole che non vengono, cioè hanno deciso e verranno applicate, no? Tra l'altro le chiamano raccomandazioni, però di fatto sono delle regole che comportano dei provvedimenti punitivi se non vengono rispettate. Ecco, su questo faccio notare alcune cose, tra l'altro, che molte banche già utilizzano Basilea 3, delle volte hanno ragione, delle volte è una scusa per dire attenzione che vengono ristretti, noi dobbiamo attenerci a queste regole e possono essere ristrette, ed è il motivo per cui stringiamo sui crediti. Però c'è la possibilità, Claudio, perché ti ho perso un certo momento, che qualcuno chieda di modificare queste regole? Il problema di fondo è che il governo italiano è stato completamente assente. Ma dai. Da problematiche interne, chiaramente, cioè, era un governo a tempo e si è visto appunto che è saltato. La Banca d'Italia ha un problema di credibilità, perché non ci dimentichiamo che adesso io punto il dito su Andrea Enria, che è il presidente, che tra l'altro viene da Banca d'Italia, ma non è certamente la causa del male. Il male, la malattia del sistema finanziario economico italiano è dovuta ad altri fattori. Il principale è che i banchieri non hanno fatto il proprio lavoro come avrebbero dovuto, quindi basta vedere quello che è successo con le grandi banche, da Montepaschi, Anton Veneta, Carige, eccetera. L'altra cosa sono le commissioni con il mondo politico-economico, sia locale che nazionale, per cui vediamo che il Montepaschi si prendevano le decisioni sulla base di quello che volevano i partiti e non il management. Sì, o però la banca. Claudio, io sono parzialmente d'accordo con te, perché allora se dovessimo metterla così, le banche tedesche, Landesbank, le casse di risparmio locali salvate dal governo, dove le mettiamo? La Deutsche Bank anche lì aiutata dal governo, dove la mettiamo? In Francia abbiamo visto fare operazioni di tutto su Dexia, cioè è verissimo che il Monte dei Paschi, quella gestione del Monte dei Paschi ha messo in luce una commistione tra politica, finanza e anche organismi locali, non se ne abbiano ogni volta i senesi, ma dai su, lasciamo stare che è meglio. Da un lato è verissimo che la vicenda della Cassa del Premio di Genova è come della Cassa Marche, però se dovessimo ragionare così, allora voglio dire non si salverebbe quasi nessuno in Europa e neanche nei piccoli paesi. A me sembra che ci sia un problema anche di assenza politica, e le banche italiane potevano fare ancora più pressione forse sulla classe politica, visto che questo qua andrà, se applicato in questo modo, creerà dei casini enormi, scusatemi il termine, nel rapporto già difficile tra banche e piccole imprese. Poi noi abbiamo 70.000 ieri commercianti, artigiani in piazza, ma io ricordo la dichiarazione di Fassina di ieri, che ha detto eravamo troppo distratti, bloccati dalla causa giudiziaria di Berlusconi per poter fare altro. Ma adesso, per esempio, caro ex viceministro Fassina, per esempio occuparvi di quanto stava decidendo la European Banking Authority c'entra con le cause giudiziarie di Berlusconi? Ma per favore, Claudio, ti faccio chiudere. Va bene. Dimmi. Non c'è dubbio che la debolezza politica dell'Italia, politica ed economica dell'Italia, che fa sì che i tedeschi, quando hanno dei problemi, hanno la forza di imporre delle soluzioni. Noi non abbiamo né la forza economico-finanziaria né quella politica e paghiamo un prezzo altissimo. Ma quello che non è chiaro è che in Italia si fanno grandi lanciano accuse alle banche, giustificatissime, perché le banche hanno delle responsabilità enormi, però laddove il governo o la stessa banca centrale devono intervenire per far sentire, far capire che questo è un problema gigantesco, cioè questo può avere un effetto devastante sull'economia reale. Assolutamente devastante. C'è il silenzio. Io veramente delle volte impazzisco, c'è il silenzio sul fiscal compact e vabbè. E cioè l'obbligo che abbiamo firmato di ridurre di 48 miliardi l'anno per 20 anni il nostro debito. C'è silenzio su queste cose che, se non era per il tuo articolo su Sole 24 Ore, obiettivamente sfuggivano alla massa delle persone. Poi ti chiedi perché le banche non prestano. Le banche a questo punto dicono: scusatemi, c'è la European Banking Authority che ci obbliga a mettere in sofferenza se aiutiamo una seconda volta un cliente, e poi fa bloccare, diciamo, tutte le linee di credito se solo uno supera di un euro la linea di credito che ha il 20% totale dei finanziamenti. Cioè, sembrano misure fatte apposta per giustificare / invogliare le banche a prestare sempre meno soldi alle piccole e medie imprese. Io ringrazio Claudio Gatti, dico solo una cosa: è inutile poi chiedere alle banche di avere un rapporto sul territorio, di andare a valutare, e lo chiediamo da sempre, di smetterla con semplicemente gli schemi e gli automatismi di valutare cliente per cliente, come sapevano fare una volta, per cui c'è l'imprenditore che può essere in difficoltà ma ha dei buoni progetti, c'è quello che invece non merita credito perché non è un buon imprenditore, cioè di fare un lavoro sul territorio. Se poi dall'alto piombano queste 183 nuove regole, come se non bastasse Basilea 3, la vendetta dalla European Banking Authority. E fatemi dire una cosa su Andrea Enria. Allora, caro dottore Henry, io non la conosco personalmente, venga quando vuole a Focus Economia, però lei, che è nato nel 61, ha studiato alla Bocconi, quindi è relativamente giovane per questo paese, ha studiato alla Bocconi, ha studiato a Cambridge, ha lavorato in Banca d'Italia. Mi dicono, diciamo, che Mario Draghi la veda con favore, visto che l'ho appena elogiato, posso anche criticare Mario Draghi. Allora, mi può spiegare perché lei, che guida la European Banking Authority ed è italiano, non sembra aver mostrato nessuna particolare sensibilità per le problematiche nel nostro paese? Poteva fare anche una dichiarazione a mezzo stampa, invitare il governo a prendere posizione, dire: attenti, stiamo per varare 183 nuove regole che andranno a massacrare il prestito delle banche verso gli artigiani, i commercianti e i piccoli imprenditori italiani, oltre che spagnoli. Poteva fare qualunque cosa, invece è stato assolutamente zitto. Allora, io capisco che quando uno studia a Cambridge, alla Bocconi, a Cambridge, poi va alla Banca d'Italia, si senta appartenere a un'altra elite, ma per tutti noi che stiamo in questo mondo, sarebbe stato importante avere anche una sua indicazione. Siamo un po' stufi di persone che pensano più alla loro allure europea, e quindi ogni riferimento a Mario Monti del tutto casuale, e forse anche Enrico Letta, che ai destini dei paesi in cui sono nati, cresciuti, in cui vorremmo che crescessero anche i loro figli. Caro Andrea Enria, poteva alzare la voce almeno lei, o almeno metterci in guardia, chiamare il Presidente del Consiglio, fare un comunicato, chiedere: va tutto bene per l'Italia? È italiano? Poi, se vuole chiamarci l'ufficio stampa dell'EBA, vuole Andrea Enria intervenire, noi lo cercheremo nei prossimi giorni, ma onestamente basta con l'allure invece che il realismo. Traffico, sennò poi mi arrabbio e poi andiamo alla borsa. :17:47, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa, -0,20% Milano, +0,20% Parigi, invariata Francoforte, invariata Londra, +0,30% l'America. Una giornata, diciamo, tutta sottotono, e quindi la facciamo breve con Andrea Fontana, Radio Corri Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, A2A da un lato che guadagna il 5,21%, fronte opposto invece per Tenaris, -6,94%. per la 2A, una performance veramente brillante, soprattutto sulla scia dei conti pubblicati a metà seduta, i conti preliminari del gruppo, per cui ricavi, margine operativo e indebitamento, ad essere apprezzati dal mercato, soprattutto la riduzione di 500 milioni dell'indebitamento, che scende sotto i 4 miliardi a 3,9 miliardi, e anche la crescita del margine operativo in un anno in cui la generazione di energia ha vissuto momenti molto difficili, quindi più 5% di A2A, che è stata la migliore del FTSE MIB. Per quanto riguarda invece Tenaris, una perdita importante del 7%, un vero KO in borsa, dovuto alla delusione sulla quella che era una decisione attesa da parte del Dipartimento americano sull'imposizione di dazi nei confronti di alcuni paesi per pratiche antidumping. Tutti si aspettavano che fosse colpita dai dazi anche la Corea, il principale importatore di tubi, il mercato in cui è presente Tenaris, tra i leader Tenaris, importatore di tubi, dicevo, la Corea sul mercato statunitense. Invece la decisione ha imposto dazi antidumping ad altri 8 paesi, ma non ai coreani, come invece molti analisti si aspettavano. Ecco perché Tenaris è stata così penalizzata. Per il resto i rialzi abbastanza contenuti: Mediolanum più 1,30%, Ansaldo STS più 1,25%, con 9 voci di una cessione a General Electric. Faccio notare che Alessandro Pansa, amministratore delegato di Finmeccanica, ha chiarito ai nostri microfoni la settimana scorsa che vuole vendere sia Ansaldo Breda che Ansaldo STS. Più esplicito di così non poteva essere. Saipem anche qui su voci di un interessamento da parte di un gruppo norvegese per una quota della società più 1,20%, fronte opposto TOZ meno 1,90% e Banco Popolare meno 1,80% e Finmeccanica meno 1,80%, Unicredito meno 1,50% come ST Microelectronics e World Duty Free, Telecom meno 1,20%, Ferragamo meno 1% come Pirelli. Lo 0,70% lo perde Atlantia. Un commento rapido su due titoli fuori dal listino, e mi riferisco a CIR da un lato e Salini in pregiro. Sì, per quanto riguarda CIR, è il secondo giorno che il gruppo conosce una perdita, ieri meno 3%, meno 1,8% oggi, è arrivato a perdere anche più del 2%, e diciamo che a pesare è il caso Sorgenia, la controllata dell'energia del gruppo, che è in corso un'importante ristrutturazione del debito, ancora l'accordo con le banche non c'è, e il gruppo due giorni fa ha comunicato di avere un'autonomia finanziaria ristretta a un solo mese nel caso in cui appunto non venga raggiunto un accordo con le banche. Ecco perché il titolo continua a risentirne in borsa. Invece per quanto riguarda Salina in pregiro, è ancora lontana l'accordo sul canale di Panama, ricorderete la questione degli extra costi, per cui c'è in ballo una disputa tra l'autorità del canale di Panama e il consorzio che sta costruendo l'ampliamento del canale, a cui partecipa Salina in pregiro, accordo ancora lontano, e la borsa penalizza il titolo, che ha perso il 2,6%. Grazie Andrea Fontana. Adesso ci spostiamo, migliore peggiore in assoluto è il Venture Group più 29 e Tiscali più 14, fronte opposto Bialetti meno 8 e appunto Tenaris. Ci spostiamo su una vicenda che va tutto bene, ma di cui non capisco una cosa, che non è proprio un dettaglio. Mi riferisco all'ingresso dello Stato cinese in Peugeot e all'aiuto che lo Stato francese dà alla stessa Peugeot. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Chiarisco a molti bancari che siamo d'accordo che dare un prestito a un piccolo imprenditore per pagare gli stipendi non è un prestito, è un credito, diciamo, a medio termine. Io parlavo di un'altra cosa, ma non posso tornare sul tema di Enria. Spero che ci chiamino, domani lo cerchiamo, non vi preoccupate, non so se ha voglia di parlare Andrea Enria con noi, lui si occupa di cose troppo importanti, sta troppo in alto. Invece Andrea Malan del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Chiariscimi solo una cosa. Allora, Peugeot Citroën, che è il primo costruttore automobilistico della Francia, fa un aumento di capitale da 3 miliardi di euro, è in grosse difficoltà da tempo. A questo aumento di capitale partecipano, da un lato, il gruppo cinese Dongfeng, che è dello Stato cinese, e dall'altro e ci mette 800 milioni. Dall'altro lo Stato francese che ci mette 800 milioni. Esatto. Ognuno si compra il 14% della Peugeot e alla fine dell'operazione la famiglia Peugeot non avrà più il controllo del gruppo. Domanda, ma questi non sono aiuti di Stato? Dunque, la domanda è stata fatta in termini un po' diversi da un giornalista oggi alla conferenza stampa al presidente di Peugeot, il quale ha detto: contiamo sul fatto che Bruxelles non considererà l'intervento dello Stato francese come un aiuto di Stato, in quanto l'intervento avviene a condizioni di mercato nell'ambito di un aumento di capitale che verrà sottoscritto anche da investitori privati, dove il Dongfeng conta come investitore privato, come hai ricordato tu, fino a un certo punto. In parte la famiglia stessa Peugeot comunque parteciperà, perché vedrà ridursi la quota ma sottoscrive in parte, quindi dovrebbe spendere circa 200 milioni di euro freschi, e parteciperanno anche i piccoli investitori, salvo con la rete, diciamo, di protezione del solito consorzio bancario di garanzia. I limiti, la definizione di aiuti di Stato è estremamente difficile da inquadrare. È vero che sicuramente questo è considerato un aiuto di Stato, visto che l'azienda anche nel 2013, è stato annunciato oggi, ha perso 2 miliardi di euro e 300 milioni, insomma, già perdite rispetto al 2012, ma continua a bruciare cassa a un ritmo preoccupante. Quindi diciamo che per fare un paragone italiano un po' irriverente, diciamo che non è nelle condizioni in cui era l'Italia qualche anno fa, quando è stata salvata dall'intervento di una cordata di patrioti, ma non è in condizioni molto migliori. Ma scusami, perché adesso non vorrei che gli aiuti di Stato fossero come gli animali della fattoria di Orwell, che sono tutti uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri, ma insomma... Cioè, sono aiuti di Stato o no? Beh, 800 milioni di euro messi in un gruppo che va male, che ha già licenziato 11.200 posti di lavoro in Francia, ha chiuso anche la mitica fabbrica di Aulnay nella regione di Parigi. Io li capisco come aiuti di Stato, poi che entrano i cinesi, vabbè, quelli sono fatti loro formalmente, quello è... ma aiuti di Stato europei non dovrebbero esserci, no. Diciamo che ci sono delle normative, a livello europeo, e sicuramente questa operazione andrà sotto la lente di Bruxelles. A quel punto si vedrà cosa giudicherà la Commissione. Ricordiamo solo che comunque, essendo le aziende automobilistiche tutte private, Parigi è già socia di Renault con una percentuale simile del 15% del capitale. Non lo Stato, ma un Land tedesco, quindi un ente pubblico, è socio al 20% di Volkswagen. Nel caso di Renault e nel caso di Volkswagen sono aziende che vanno bene, come del resto lo Stato italiano è socio del legno e dell'Enel, quindi la partecipazione pubblica a un'azienda privata è ovviamente ammessa anche a livello europeo. Il discorso dell'aiuto è legato al fatto che sia un investimento che è evidentemente che un investitore, diciamo, ragionevole non farebbe, quindi viene fatto solamente per tenere in piedi un'azienda. È probabilmente su quello che Bruxelles dovrà decidersi, e Parigi conta sul fatto che, mostrando che arriva qualcuno anche da fuori, cioè i cinesi, mostrando i miglioramenti operativi, tu hai parlato di 11.000 tagli, è giusto, diciamo che sono tagli che sono stati avviati da Peugeot, tra l'altro anche prima di altre concorrenti, altri ne sono stati in qualche modo preannunciati oggi, quindi sì. Peugeot è un pochettino, potremmo dire, nella situazione in cui erano GM e Chrysler nel 2009, cioè lì l'amministrazione americana ha dato un aiuto anche consistente, costringendo però le aziende a fare una cura rigorosa e ha ottenuto dopo qualche anno la restituzione dei soldi, non tutti, ma quasi tutti. È chiarissimo, Andrea, vedremo cosa dirà Bruxelles. Ho capito, cioè, il confine. A me sembra, insomma, che vabbè, meglio che stia zitto oggi che siano belli furbi francesi. Comunque adesso c'è il GR, poi lo speciale dedicato allo scontro Renzi-Grillo, noi alla termine del quale ripartiamo alle 18.15 per parlare del Toto Ministro all'economia. Alle 18 e 18 minuti torna Focus Economia. Allora, abbiamo messo questa base un po' sensuale, perché dopo quello che abbiamo sentito, risentito, l'abbiamo trasmesso anche in diretta, tra Grillo e Renzi, devo dire soprattutto Grillo, volevamo un po' così addolcire il clima. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. No, perché questa base è molto anche così, appunto sensuale, è un po' in contrasto con quanto abbiamo appena fatto riascoltare, ma non darò nessun giudizio sulla cosa, ognuno la può pensare come vuole, vedo molti ascoltatori divisi tra Renzi e Grillo, ma va bene così. Faccio solo notare che ogni tanto si può anche ascoltare oltre che annunciare, però evidentemente non c'era voglia di nessun confronto al di là dei contenuti. Però veniamo al Toto Ministro, che è un termine che non mi piace, ma nel frattempo Matteo Renzi ha lasciato la sede della Banca d'Italia, non ci sono dichiarazioni, ha incontrato Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia. Sul Toto Ministro sul Toto Ministro invece sono circolati in questi giorni tantissimi nomi. Lucrezia Reichlin, Romano Prodi, Franco Bassanini, Ignazio Visco, Franco Bernabè, Carlo Padoan, Graziano Del Rio, Guido Tabellini e perfino Piero Fassino. C'era anche un altro nome che circolava con insistenza, Fabrizio Barca, tu sai dove sto arrivando, Guido, insomma, per colpa anche nostra, della Zanzara, che non ha nessuna colpa, lo dico per la seconda volta oggi, per favore, mi sembra che Barca non avesse nessuna intenzione, poi una prossima volta controlli meglio. Vabbè, detto questo, alcuni no sono già arrivati, nel senso che mi sembra di capire che insomma Bernabè fosse in corso anche per lo sviluppo economico, ma insomma... Renzi ha dichiarato oggi: il Toto Ministri non mi interessa, noi discutiamo di programma, non di nomi, però è chiaro che è il Ministro dell'Economia il tassello cruciale per capire quanta discontinuità avrà il governo Renzi con i governi precedenti. Renzi ha annunciato che sabato presenterà la squadra, lunedì cercherà la fiducia in Parlamento. L'ex ministro, cioè tuttora in carica, Saccomanni, all'Economia, ha detto: nessuno mi ha contattato, casomai ci rifletterò. Dimmi un po' le quotazioni e i nomi che circolano, Guido. Ma innanzitutto lo dico con l'avvertenza che in realtà il Toto Ministri è in corso e di nomi si stanno occupando all'interno della maggioranza di governo e lo stesso Renzi, perché il programma, si dice sempre così, che ci si occupa del programma, ma ora mancano poco più di 24 ore a una decisione sulla squadra dei ministri e quindi è giusto che si occupino anche della squadra. Per quanto riguarda la posizione chiave, è quella del Ministero dell'Economia, che come hai detto giustamente te dà la misura rispetto alla scelta che verrà fatta della discontinuità che ci sarà tra il governo Letta e il governo Renzi, e quindi è la casella più importante che dovrà essere riempita. Ci sono stati sembra una serie di no, anche se alcuni di questi non sono stati ufficializzati, come per esempio quello relativo alla notizia alla Lucrezia Reichlin, che avrebbe detto di no, avrebbe rifiutato l'offerta. Beh, lei è in corso anche per la vicepresidenza della Bank of England, farà i suoi calcoli, immagino. Certo. Barca? Barca, sappiamo che non lo voleva fare e se avevamo qualche dubbio ce l'ha sciolto la Zanzara. C'è l'ipotesi della riconferma di Saccomanni, sulla quale si diceva nei giorni scorsi che ci fosse una forte pressione anche da parte di Mario Draghi, della BCE e dello stesso Presidente della Repubblica. Io credo però che appunto, essendo questa la casella chiave per segnare la discontinuità, Renzi non procederà a una riconferma di Saccomanni, credo io, se devo fare una sarebbe obiettivamente il minimo della discontinuità, perché parliamoci chiaro, del governo Letta sì, altri ministri hanno avuto problemi, ma insomma i due ministri sotto osservazione, tre ministri sotto osservazione sono sempre stati quelli di carattere economico. Nessuna critica io ho visto a Emma Bonino, faccio un nome che per esempio è circolato come ministro che potrebbe essere riconfermato, ma insomma su Saccomanni troppo morbido e troppo blando nelle sue dichiarazioni, sul ministro attività produttive e quindi Zanonato, che io una volta mi permisi con, amichevolmente, di chiamare Forrest Gump perché sembrava sempre uscito un attimo da una bolla e su, anche sul ministro Lavoro, beh, c'erano state le maggiori tensioni, devo dire, soprattutto su Saccomanni e Zanonato. Ecco perché, a mio avviso, la discontinuità o la mostri lì, o se no chi se ne frega, tra parentesi, se cambi un ministero o dei ministri minori, insomma, è lì ed è sulle risposte da dare agli italiani in ginocchio, e imprese e lavoratori e disoccupati, ma anche all'Europa, che è lì che sta a guardare che cosa farà il nuovo governo, manterrà i patti o no, cioè è lì che si misurerà la forza e la potenza, diciamo, di questo nuovo governo. I nomi circolati però sono tutti nomi, se posso dirla, non vicini a Renzi, o sbaglio? Cioè che non possono essere chiamati tra, così, i padri costituenti della Leopolda. No, assolutamente, infatti c'era anche stata l'ipotesi addirittura di una riconferma, si è parlato subito all'inizio, poi smentita sostanzialmente da entrambi, anche di un possibile incarico a Letta. Oggi Renzi ha parlato di Enrico Letta come di un, diciamo, di una persona con il quale ha collaborato, collabora in questa fase attuale, che è quella, diciamo, di transizione, ma anche nella fase successiva. Però io non credo che questo, diciamo, possa far pensare a un'ipotesi di rientro del ministro Letta al Ministero dell'Economia. Quindi effettivamente il rebus è molto forte, anche perché si indica spesso un tecnico che però abbia anche una forte conoscenza della politica, e viceversa di un politico che però abbia anche una grande competenza in campo economico. Quindi il rebus non è facile assolutamente da sciogliere, e credo che un'ipotesi potrebbe essere quella di ricorrere al serbatoio naturale per questo, cioè la Banca d'Italia. C'è Visco. E quindi interpretare, diciamo, il passaggio di oggi non solo come una ricognizione dei problemi a via nazionale, cioè nella sede della Banca d'Italia, ma anche a un'offerta al governatore della Banca d'Italia Visco, soluzione sperimentata nel tempo molte volte. Oppure al direttore generale Salvatore Rossi, sì. Quindi potrebbe anche essere questa un'ipotesi plausibile, che in questo caso ovviamente metterebbe a tacere qualsiasi critica, sia sul fronte europeo sia sul fronte interno, perché diciamo che da questo punto di vista la Banca d'Italia mantiene uno standing quello in dubbio, ecco. Bisognerà capire se poi però Renzi non avrà un problema interno, nel senso che i ministri arrivati alla Banca d'Italia, con esperienza in Banca d'Italia, erano giustamente, dal loro punto di vista, molto, posso usare termini ossequiosi, molto attenti alle esigenze della BCE e di Bruxelles, forse un po' meno, diciamo, alle esigenze degli italiani, ecco, se posso dirla tutta, per cui dammi una chance su Prodi, perché do molti messaggi che non sarà Prodi il prossimo ministro dell'economia. Ma la chance su Prodi, diciamo, forse nella testa di Renzi potrebbe anche esserci un'ipotesi. Sì, ma poi non becca la maggioranza, forse non becca, esatto, la maggioranza. Il problema è che il contraccolpo di una scelta del genere dentro la maggioranza, in particolare nel rapporto con Alfano e il nuovo centrodestra, sarebbe ovviamente un contraccolpo forte, credo negativo, sì. E quindi credo che, diciamo, gli spazi di agibilità politica per quanto riguarda l'ipotesi Prodi siano in questo momento molto molto stretti e difficili. Comunque lo sapremo, cioè, solo vivendo, diceva uno, ma insomma lo sapremo a brevissimo. Ripeto, è la casella più importante, non solo perché da lì poi conseguono tante altre cose, ma perché è quella che va poi a segnalare la discontinuità o la continuità. Non che ci debba essere una discontinuità totale, è ovvio, però è un compito molto delicato. Alcuni lamentano, e chiudiamola qui, Guido, che però insomma Renzi poteva avere già un nome in tasca, tanto l'ipotesi che potesse prendere il posto di Letta non è che sia arrivata all'improvviso, anche se lo sviluppo ha conosciuto un'accelerazione. Che lui avesse un nome in tasca ce l'ho, e secondo me il nome in tasca che lui aveva era quello di Lorenzo Bini Smaghi. Eccoci. Però io credo che quella sia un'ipotesi, diciamo, impraticabile, perché su questo terreno, diciamo, che in Italia, sia da parte della Banca d'Italia, ma soprattutto della Banca Centrale Europea, ci sia sostanzialmente un veto su questo nome. Ma come mai? Perché lui ha fatto parte anche del direttivo della Banca Centrale Europea. Certamente, lo ha fatto parte per sette anni, se non ricordo male, però ricordiamo tutti, diciamo, nel 2011 la contrapposizione che ci fu a tempi del governo Berlusconi, quando Berlusconi doveva indicare il nuovo governatore della Banca d'Italia, e l'ipotesi di Draghi a Francoforte, alla Banca Centrale Europea, beh, certo, che doveva lasciare e Binisbaghi non voleva lasciare e il posto Binisbaghi, certo, e ci fu da qui un'infinita polemica, certo. Guido, attendiamo con ansia, non te, ma di sapere da Matteo Renzi chi farà il ministro dell'economia. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Ed è veramente tutto, ognuno lo può pensare come vuole sulla radio, sui suoi programmi. Io ho solo detto che Barca si è fatto fuori da solo. Su, noi vi aspettiamo, Sebastiano Barisoni e Focus Economia vi aspettano domani dalle 17 in poi. Intanto le auguri a tutti di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.